Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fuck. Do. Diego. Fuck. To do. www.askthebene.com. Ebbene sì, www.askthebene.com. Senti quanto spacca la nuovissima sigla di Battito Madre. Sono contento che ti piace, Pierino. Perché qua è tutta opera del mio grandissimo compagno di viaggio, Coli. Coli, ben ritrovato. Grazie, ben ritrovato anche a te. Qui ai microfoni di astarbene.com, in diretta da Ex Alge in Milano. E siamo appunto in diretta, siamo dal vivo, per chi non lo sapesse questa è la puntata numero 2 di questa cosa che Freestyle. Si chiama Battito Madre. Senti come va Felacuti intanto in sottofondo. E saluti a tutte, a tutte, benvenuti, chi sta qui a sentirci, chi ci sta sentendo. Abbiamo ricevuto un sacco di lettere, amore, lettere odio. D'amore, oggi su Instagram vogliono farci fare i modelli, ma noi in realtà vogliamo solo parlare di Black Music, lasciateci in pace, cazzo. Insomma, io però, prima ancora di ringraziare, anzi, prima ringraziamo Ex Alge, Star Bene che ci fanno fare la radio, Coli con cui riesco a fare questo programma che ci sta piacendo molto. Anche oggi abbiamo preparato, come direbbero Lundini e la Fanelli, lasciatecelo dire, proprio un bel programmino. È un programmino. Grazie alle cose belle, quindi. Grazie alle cose belle, grazie alla Black Music. Ma prima ancora di dire, poi di entrare in quello che sarà l'argomento di questa sera, io, Coli, visto che ormai sono passati 2 mesi dall'episodio pilota, perché in mezzo c'è stato Natale e Battito Madre sarebbe caduto mercoledì 28 dicembre, capite che a venire qui a fare la diretta non era proprio cosa. Mi sono successe un paio di cose che io ho pensato che potesse valer la pena raccontare qui in diretta. E la prima è la seguente. Sarà stato dicembre, i miei amici mi hanno portato a vedere Black Panther 2, che si chiama Wakanda Forever. Sì. E insomma, Black Panther c'ha questa intelligenza artificiale che lo aiuta dentro il laboratorio, così. E lo sai come si chiama questa intelligenza artificiale? Che è come quella di Iron Man, per dire. Lo sai come si chiama? Devo tirare a indovinare? No, te lo dico io. No. Si chiama Griot. Griot. Ok, Griot. Che è esattamente questa cosa, queste persone, questi certo. Custodi. Ne abbiamo parlato dei Griot, esatto. Attenzione. I Griot sono i custodi della cultura orale in moltissime culture di quella che è l'Africa occidentale. Sì, è tipo c'era più, non più, assolutamente, ti sei sicuramente più informato di me, ma i Griot erano le cose che proprio caratterizzavano a livello un po' geografico e... non so come dire, sociologico, le varie tribù degli stati africani, no? Ecco, e questo è testimone in realtà di una bella ricerca che questa cosa, questo film, che poi a me alla fine non è piaciuto, però c'è un fa elemento schifo. No, non lo so, non l'ho già no, non mi è piaciuto, ma insomma questo è argomento per altri talk, perché poi qua ci mettiamo a parlare di cinema. Okay. Insomma, però questa è una cosa che ho detto, ma pensate. E la seconda cosa mi è successa invece sabato scorso, in cui sono andato ad una session Sound System, era l'inaugurazione del Sound System più nuovo d'Italia probabilmente, che è il nuovo Sound System, Dub Hunter Sound System, con Blusoni. Io saluto tutti se ci stanno ascoltando. Ci ha messo i like, mi ricordo il nome, ci ha messo i like. Grande, grandissimo. Mattia, gli mando, e anche i ragazzi di Dub Hunters. C'è stato un momento in cui stavamo facendo session io e Mattia, so che stavo proprio suonando, e Mattia si è suonato un pezzo che è un remix di Belly Full di Bob Marley, il remix di Mohambez, insomma fighissimo. Ciao Francesca che è appena arrivata, questo remix meraviglioso. E io ero, insomma, stavo suonando, per cui era anche una situazione di concentrazione, se vogliamo dire. Ma io ci sono stati 2 minuti in cui sono stato completamente su un altro pianeta. Mi sono astratto completamente dal luogo in cui ero, forse mi è scesa anche una lacrima. C'è stato un trasporto incredibile nel mezzo, alle 2 di notte, nel mezzo di una sound system session in cui ci stavamo divertendo, stavamo saltando, stavo cantando, però ci sono stati quei 2 minuti lì in cui ho detto cazzo, lo sto sentendo un sacco. So dove vuoi arrivare. E insomma, e intanto possiamo chiudere qua questa prima parte, nel senso che prima ancora di entrare nel vivo, basta Pierino, io volevo dire 2 cose di Black Music completamente generalistiche, non sul tema, però insomma è anche bello, anzi noi siamo qui a fare questo proprio perché la Black Music tocca le nostre vite tutti i giorni. Sì. Per cui io credo che valga anche la pena raccontare certe cose. È vero, una riflessione molto leggera che avevo fatto, cioè nel senso noi non è che siamo qua perché abbiamo detto impariamoci che cos'è la black music. Ma per quanto riguarda me soprattutto, cioè è stata più una cosa: ah, la musica che mi piace è tutta black music. Quindi, ma perché? Perché? Per quale motivo? Cioè per quale ragione? Ma infatti l'abbiamo detto 2 mesi fa, questo è uno spazio di curiosità. Noi siamo 2 appassionati, 2 persone a cui piace parlare di questa cosa. Certo. E forse abbiamo già parlato troppo come primo spezzone. Dalla regia mi tirano degli sguardi che insomma... fanno bene. Però allora, allora facciamo che ci giriamo il primo pezzo di questa sera senza annunciarlo, perché di nuovo, come tanti dei pezzi che ci siamo suonati su Battito Madre, non hanno bisogno di presentazioni, almeno questo non di sicuro. Via. Bello, bello. Che voglia dovrei. Mi manca assai una compagnia, ma non so buono né più a parlare, e non congiuro mai. Ma I got the blues, I got the blues on me. Oggi, i forzi non dormi più, e camminato senza te. Stavo di invece parlava coppe sotto sotto, stavamo buon. Nacchi, I got the blues on me. I got the blues, I could see. I got the blues on me. I got the blues, I could see. Esatto, allora noi lo diciamo per prassi radiofonica, ma insomma è davvero scontato. Questa era la voce di Pino Daniele che stava finendo il suo scat mentre siamo entrati in diretta. E già insomma dire scat e Pino Daniele è già una frase molto significativa. Ecco, perché insomma ormai si è capito, a parte si era già capito per la comunicazione, questa sera è blues. Blues. Bella anche prassi radiofonica, se mi permette. Grazie, ti ringrazio. Questa sera abbiamo il blues addosso. E allora, come abbiamo fatto l'ultima volta, cerchiamo intanto di spiegare che cosa vuol dire questa cosa. Che cos'è il blues? Che è un colore, cazzo, il blu. Sì, è un colore di blu. È un colore, il blu, ed è un'espressione popolare che è nata probabilmente intorno al Novecento, proprio nelle zone di cui parlavamo anche nell'episodio pilota. Scusa, è Novecento, prima. Settecento. Ho detto sette, hai detto nove. Vabbè, mi sono confuso, ma volevo dire sette, te lo giuro. che pare derivi, insomma, dal, o meglio, prima di tutto, vuol dire un certo sentimento di malinconia. Sì. Siamo, esatto, in un'epoca in cui i generi musicali non esistono, no, praticamente. Cioè, nel senso, la musica popolare non ha targetizzazione, cioè catalogazione, niente. Non ha categorie, niente. Non categorie, ha etichette, okay, e non nel senso di etichette, perfetto, discografiche. Ed è questa malinconia che però è caratterizzata da una mancanza di speranza, una malinconia pessimistica. E dicono delle fonti che noi ci siamo trovati che va in contrasto appunto con la concezione religiosa, perché se noi 2 mesi fa parlammo di spiritual, di gospel, che hanno dei messaggi direttamente di speranza religiosa, il blues è caratterizzato invece da una, possiamo dire, disperazione. Sentimento. Questo sentimento proprio di abisso un po'. Sì. Quindi, esatto, iniziamo anche a contestualizzare, cioè perché è questo sentimento, no? Esatto, è abbastanza scontato per chi ha seguito la pilota, però ovviamente... tanta gente mi ha detto, no, non sono riuscito a seguire la pilota, quindi... Che non è una scusa perché sono usciti podcast, ma comunque, qual è questo sentimento di disperazione? Qual è la malinconia? Che è una malinconia che non è mai individuale, nonostante quella che viene espressa poi è quella individuale, ma la malinconia in sé, il sentimento è culturale, più che generazionale, è proprio umano, di un certo tipo di umanità, cioè l'umanità che per centinaia di anni è stata privata della propria cultura, costretta a lavorare, ma più che lavorare era tortura. Sì, schiavi. Schiavi. In queste zone del mondo di cui noi andiamo a parlare, perché tra l'altro adesso magari introduciamo un attimo, noi poi vedremo un documentario che si chiama The Land Where Blues Began, e noi stiamo esattamente parlando della terra dove è nato il blues, che è, in modo un po' più preciso, il delta del Mississippi, che è una zona geografica molto molto precisa, di cui in realtà andremo a parlare dopo. L'ultima cosa, Cori, che mi piaceva dire su questa cosa, che pare derivi, e qua c'era il 700, pare derivi da to have the blue devils, avere i diavoli blu. Bello. Perché diventava semplicemente to have the blues. Sì, esatto, forse non abbiamo ancora spiegato il sentimento, ma di sicuro a parole non riusciamo a farlo, anzi abbiamo la musica. C'era un genere, esatto. Forse c'era un genere che esprimeva che cosa vuol dire. Però di fatto avere il blues è un sentimento di malinconia, di malessere, di... hai qualcosa dentro ma non riesci ad esprimerlo, e qua hai detto una cosa fondamentale su cui voglio tornare più tardi. Dopo ci torni, non ti preoccupare. Però allora, Pino Daniele, nel pezzo che abbiamo sentito prima, dice I got the blues on me, ho il blues addosso, vuol dire ce l'ho proprio addosso. E io credo che Pino Daniele non sia per niente una casualità. Il napoletano, la lingua napoletana, è un po' la lingua della nostalgia, è una lingua poetica in quel senso lì? Io credo di sì, anzi, non lo sto dicendo come una domanda, ma come una cosa che secondo me è un fatto. Il napoletano ha questo che di... Sai, secondo me è un'altra cosa che ha il napoletano, e probabilmente che deriva da quegli anni ed eccetera, cioè il napoletano le ha passate tutte, quindi il suo è anche un po' un sentimento di riscatto, no? Tra l'altro, esatto. Il napoletano ce ne ha passate qualsiasi cosa. Nella storia di Napoli forse c'è questo che esce nella lingua. Questo è... probabilmente sei molto più sveglio di me, perché sei arrivato all'origine, sei andato alla causa e non all'effetto. Tant'è però, questo volevo dire io, che lo stesso Pino non ha trovato nessun altro modo di dire come ce l'ha questa malinconia addosso, se non Nero a metà, che è un disco di Pino Daniele. E cantandolo. Esatto. E con la musica, lo non dice. Non c'è un modo migliore per dire ho addosso sta cosa, se non dire sono nero a metà. E questo è un po' tutto, potremmo dire anche, potremmo parlare 5 minuti solo di questo pezzo. Basta. E forse abbiamo fatto un po' tutta la puntata. Basta. Però insomma, tornando un po' al fatto storico, il blues è un po' il primo genere evoluto dal gospel e dallo spiritual, per cui c'è stato anche un momento in cui magari sono stati insieme, cioè il gospel blues. Ah beh, esatto, stiamo comunque parlando di tutte cose che derivano dalla puntata precedente che abbiamo fatto, ovviamente, cioè certo, nel senso, non abbiamo parlato di song, spiritual, gospel. Esatto, le cose sono quelle, soltanto che ormai dalla terra nativa, ci siamo spostati al Sud America. Hai ragione, scusa. Centro America, scusate. Scusate. Sì, no, Nord, alla fine, nord, in sì. questo caso, però sì, un po' nelle sud Americhe, del Nord. Nelle Americhe. Detto questo, Coli, ci piace troppo parlare di questa cosa, perché finiamo sempre per parlare tantissimo, ma io direi che andiamo a sentire il prossimo, che andiamo altro che Pino Daniele, molto distante, molto più distante, molto prima, come al solito forse è il caso di dirle dopo due cose su questa cosa, cosa dici? Beh, dico ok. Let's go, no more, my lord. No more, my lord. No more, my Lord, Lord, I'll never turn back. No more, I found in him may rest. And he have made me glad. No more, my Lord. No more, my Lord. Lord, I'll never turn back no more. Jesus, say, man, I am looking for. Can you tell me where he's gone? Go down, go down, among flower yard, and perhaps you may find him there. Ecco, rientriamo in diretta, forse è un po' difficile rientrare dopo questo, ma noi comunque stiamo facendo radio, stiamo facendo questo, che abbiamo chiamato un pezzo, quando in realtà non è una canzone, forse andrebbe chiamato un documento audio. Sì, sì, sì, sì, infatti ci ricolleghiamo poi a quello che ha detto prima Piero, ma a quello che faremo poi, dopo, e diremo dopo. Sono registrazioni degli anni, se non sbaglio, 1900, 1800, no, adesso sto facendo casini. Però comunque siamo agli inizi, fine 800, inizio 900. Sì, negli anni di cui stavamo parlando la volta scorsa, o meglio, forse nei primi anni in cui quello esatto. di cui stavamo parlando si è potuto l'uscita documentare. In verità, esatto, l'uscita è poi in verità originale di questo pezzo del 93. Vabbè sì, ma queste poi sono raccolte della famiglia Lomax. Esatto. E già appunto stavo dicendo qualcosa, perché buttiamo un po' di, esatto, un po' di polvere. A livello discografico, l'artista di quest'ultima registrazione risulta essere Alan Lomax, che in realtà non è quello che stava cantando, non è quello che stava battendo il martello, la mazza sulla pietra, che era la stessa persona che stava cantando, ma quello che ha registrato tutto questo. Forse ancora dopo, no, ma diciamo, lo diciamo adesso, Alan Lomax, un modo per definirlo, è un collezionista di folk songs, di canzoni popolari. È l'autore del documentario che guarderemo dopo, alla fine di questo episodio di Battito Madre, ed è anche il soggetto di un altro documentario bellissimo che abbiamo visto io e Coli documentandoci per questa puntata, di cui parleremo probabilmente più avanti nella stagione, perché vale molto la pena di conoscere questo personaggio, che è l'origine di tantissime delle sì. conoscenze che abbiamo adesso sulla musica popolare di tutto il mondo. Esatto, perché lui, ma ancora prima il padre, musicologo, aveva iniziato a proprio collezionare proprio nelle regioni di cui stiamo trattando, quindi vuol dire delta del Mississippi, eccetera, da quelle parti. Anche di Florida mi sembra di aver sentito parlare in quel documentario, ma insomma credo forse fa parte del delta del Mississippi. Ma non ho idea. Di cosa stiamo parlando? Di registrazioni fatte, ciò che si dice field recording, quindi per la strada o nelle case o dove si trovava in quel momento chi doveva interpretare la canzone è registrato con quelli che erano i primi strumenti di registrazione portatile. Portatile, assolutamente. Per cui ecco, quello che abbiamo sentito cantare era davvero un detenuto di una prigione del Delta del Mississippi negli Stati Uniti negli anni 20. Alan Lomax è semplicemente andato con un microfono aperto a registrare e poi ha stampato per conto della biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Insomma, c'è tutta una storia bellissima che noi adesso non abbiamo tempo né modo di raccontarvi, perché abbiamo un argomento ben preciso, nonostante sarebbe bello parlare spesso di Alan Lomax. Facciamo che diventa un po' il patrono di questa puntata e di questo nostro programma che chiamiamo Battito Madre. Certo, diciamo che se senza di lui non ci sarebbe una bella raccolta di quelle che oggi vengono definite le canzoni blues per eccellenza, ovvero quelle che appartenevano a quei luoghi e che sono state fatte, scritte e registrate lì. Perché ecco, noi non abbiamo sentito un blues, ma abbiamo sentito quella che è praticamente una work song, perché proprio l'origine di quello è là. Non si sa quando sia stato inventato il blues, sappiamo solo ad esempio una data di riferimento è il primo detenente di diritti d'autore per una canzone blues, e questo si chiamava Heartwound. Ed è successo nel 1912. Un'altra cosa è che sappiamo è chi è il primo bluesman di cui si sa il nome, e si chiamava Daddy Stovepipe. Stovepipe vuol dire tipo tubo dei fornelli. Bravo, bravissimo. A questo punto già si può dire un'ultimissima cosa, probabilmente poi per raccontare queste registrazioni / il blues da dove è iniziato. È iniziato con strumenti che erano alla portata di tutti, erano proprio cose materiali, colli di bottiglia che facevano la slide guitar, bottleneck, chiodi agganciati alle travi del porticato e una stringa di ferro tirata, monocorn qualcosa, non mi ricordo, però c'aveva un nome anche quella cosa lì, e questi erano effettivamente gli strumenti che venivano usati nella creazione del blues. C'è qualcosa che non si riesce a dire nel fatto, appunto, quest'uomo di cui hai parlato tu, che lo si vede nel documentario attaccare due chiodi a una trave del porticato di casa sua e tra questi due chiodi tirare una corda d'acciaio e cominciare a suonarla. Lui sta suonando casa sua, che ha un significato che noi sicuramente qui non siamo in grado di dire. Per cui nel momento in cui restiamo senza parole, noi una cosa sappiamo fare, e fortunatamente possiamo farla perché abbiamo preparato una playlist, perché stiamo facendo radio, e perché comunque, come noi diciamo sempre, di musica è bello parlare, ma la cosa più bella è ascoltarla. Oh, e yeah. Allora, dalla work song direttamente a un blues molto molto più evoluto, di una leggenda del blues, chitarrista, si chiama B.B. King, e questo pezzo ha già la sofferenza nel titolo, si chiama Chains and Things. Strumenti, cioè già proprio... Woke up this morning after another one of those crazy dreams. Oh, nothing is going right this morning. The whole world is wrong, it seems. Oh, I guess it's the chains that bind me. I can't shake or lose chains and things. Got to go to work this morning. Seems like everything is lost. I got a cold-hearted wrongdoing woman and a slave driving boss. I can't lose these chains that bind me. Can't shake a loose these chains and things. I can't lose these chains and things. Non riesco a liberarmi di queste catene. I can't lose these chains and things, canta B.B. King, leggenda del blues mondiale, chitarrista. Ora, Coli, le due canzoni di due leggende che abbiamo suonato finora questa sera, Pino Daniele e B.B. King, sono due chitarristi. Sì, vorrei anche specificare che, vabbè, nel senso, per anche capire poi da dove si arriva... È giusto dire che anche questo ultimo pezzo che abbiamo sentito è stato campionato in due singoli. Ah, dimmi che non so. Ice Cube. Ah, davvero? E RZA, fratello. Wow. Erza. E sì, cioè quindi anche quella che è la musica molto più attuale che conosciamo e che sentiamo più abitudinariamente, o magari non lo so, che a cui siamo più detta sta parola, a cui siamo più vicini, deriva comunque dal blues. C'è poco da fare. Noi siamo qui a fare questo programma proprio perché vogliamo dire che ormai tutta la musica ha una parte nera ed è fondamentale sapere da dove viene quella parte. Però, visto che sono passati 29 minuti, siamo alla mezz'ora di dirette, forse siamo stati, non dico pesanti, ma forse abbiamo parlato di cose molto serie. Adesso io ho fatto questo esperimento, Coli, di cui ti ho parlato prima. Adesso, visto che... Prima ho detto che sappiamo chi è, ad esempio, il primo bluesman di cui sappiamo il nome. E si chiama Dave Stovepipe. Ed è nato nel 1867. Stovepipe probabilmente perché suonava... Batteva o soffiava, chissà. Faceva qualcosa di sicuro, cioè, va bene. Non c'è modo di saperlo, o meglio, non lo so, si dovrebbe fare delle ricerche. No, ma è bello anche questo, immaginati metti che tu suonassi il flauto e verresti ricordato come Piero Flauto. Esatto. Non male, ho sentito di peggio, mi hanno chiamato di peggio di Piero Flauto. Però allora, io ho voluto fare questo gioco, Coli, nell'anno in cui è nato Stovepipe, il tubo dei fornelli, che cos'altro succedeva nel mondo? E Wikipedia ha questa pagina utilissima in cui si dice anno per anno le cose che sono successe. Allora, il riassunto intanto è questo. Nel 1867 Karl Marx finiva la prima edizione del Capitale. Parliamo di, cioè, pare 400 anni fa rispetto al primo bluesman di cui sappiamo il nome. E aspetta, uno scienziato chiamato Alfred Nobel... Nel 1867 ha inventato la dinamite. La dinamite è vecchia tanto quanto il blues. Anzi, è più giovane del blues. È più giovane. Il blues arriva da prima. Ma la dinamite ha l'età di Stovepipe. Questa cosa che mi ha fatto molto ridere, Coli, il 7 maggio del 1867 si è chiuso l'affare tra Russia e Stati Uniti per l'Alaska. Perché il 7 maggio 67, 1867, la Russia vende l'Alaska agli Stati Uniti per 7 milioni e 200 mila dollari, che adesso sarebbero una cifra esorbitante. No, un po' troppo. Minchia, insomma, io non so quanto sia grande l'Alaska, ma sì, forse troppo, perché cosa ci deve essere, chissà il tempo. E poi l'ultima cosa che mi interessava è il 28 giugno del 1867 ad Agrigento, Sicilia, è nato Luigi Pirandello. Ora... Noi abbiamo appena parlato di cose che, almeno nel mio immaginario, sono molto molto più vecchie del blues. Il blues sembra qui, sembra essere qui con noi, sembra essere una roba di neanche di ieri, di oggi. È vero, è verissimo. però neanche quando nasceva il blues, ma quando abbiamo le prime tracce documentabili dei bluesmen, era questo mondo qui vecchissimo, di Pirandello, di Karl Marx. E dall'altra parte si può dire invece che era fatto di baracche e fiumi e di gente che veniva trasportata da quelli che erano campi di, non mi ricordo che cosa, cotone. No, non era cotone forse, vabbè, diciamo cotone, sì, no, poi ovvio. Molto grano anche in, certo, quelle zone. E veniva trasportata, la cosa cos'era? Stava iniziando ad arrivare l'industrializzazione, no? Stava arrivando lo spostamento nelle città. E questo vuol dire, è una grande cosa che ha fatto la terra, la natura. Ha trasportato un genere musicale da quelle che erano acque putride e marce di un fiume alle città. E questo ha fatto tanto. Tu mi hai fatto un gancio pazzesco, io non me l'aspettavo per niente, mi hai colto completamente di sorpresa. Sei un professionista, sei fortissimo. E per cui io direi di passare subito a quest'altra cosa, perché effettivamente il blues che è nato nel Delta e poi, insomma, c'era il porto, c'era uno spostamento di persone incredibile, nelle città si è evoluto, sono aggiunte magari degli altri ritmi, delle cose più elettriche, per cui si è sviluppato ad esempio uno stile che oggi, che anzi che immediatamente è stato chiamato Chicago Blues, di cui noi, visto che andiamo, anzi prima ancora, però ci ascoltiamo un esempio di quello che è il Delta Blues, al contrario di quello che poi sarà il Chicago Blues, diciamo un po' un blues di campagna, giusto, e un blues di città, sì, potremmo dire. No, su, dalle poche cose che ci siamo documentati, il Delta Blues ha come caratteristica la slide guitar, quindi quella che dicevamo prima, chitarra, corde di metallo, quello che erano, e colli di bottiglia. E per creare questo suono che faceva così, così, cos'altro dobbiamo dire? Come fai dirlo? Vai, vai. If I catch him rooting, I'm in. Lord, he won't root there no more. Yes, he's standing, he watch me every morning when I leave home. Yes, he's standing, he watch me a morning when I leave home. Then when I leave home in the morning, yes, he hangs around all day long. Get me some toad frog's hips. I'm gonna put it all together. I'm gonna mix it up together. I'm gonna whip it all up good. I'm gonna kill that old dirty groundhog. I bet you my bottom dollar, then man, he won't rule down no more. Nah, he ain't gonna rule no more then. Baby, Lord, I'm leaving you now. I say goodbye, baby. Lord, I'm leaving you now. I done did what I wanted. I done chilled that old dirty groundhog. Yes, he's through. Ok, ok, ok. Questo era il Groundhog Blues del signore che si chiama John Lee Hooker. Un disco, una registrazione che discograficamente risale al 59, che però appunto è ancora, diciamo, figlia di quella che era la tradizione musicale di quelle terre, che appunto questo è, abbiamo preso questo pezzo come esempio di blues del delta del Mississippi. Sì, esatto, stiamo facendo una ricostruzione mappologica. Sì, esatto, perché questo... oltre che parlare di tempo, come abbiamo fatto, di date, bisogna anche parlare di luoghi. Mm-hmm. E soprattutto di questo luogo, intanto. Abbiamo detto che il delta del Mississippi, ora il Mississippi, noi pensiamo a un fiume, ma non è un fiume qualsiasi, cioè secondo me possiamo visualizzarlo tipo se fosse il Rio delle Amazzoni, ma è nel Nord America, perché questa è la portata non solo geografica, ma anche proprio culturale e, se possiamo dire, anche economica di un fiume del genere. Dico economica perché? Perché lungo questo fiume c'erano, come abbiamo appena detto, tantissimi porti. Ma certo, che vuol dire spostamento di tante persone. Certo. Il che vuol dire che tu arrivavi a un porto e dicevi a tutti gli altri che trovavi lì: ma sapete, io al porto precedente, ieri, che cosa ho sentito? La gente là canta in questo modo e suona in questo modo, e loro lì magari lo facevano in un altro modo. Per cui questa poi, in una parola, si parla di contaminazione. Cioè, era un po' lo Spotify, no? Madonna. I battelli a vapore sul Mississippi. Bisognava prendere un battello e non la fibra ottica. Però vedi, c'era, insomma, non so come dire, la musica accompagnava la vita allora, e se vuoi in qualche modo l'accompagna anche adesso. Esatto. E vabbè, comunque la digressione, sì, senza... deriva, cioè, arriva a dire che da questo posto rurale, in cui c'erano i campi, in cui c'era questo genere di vita qua, che possiamo dire tra virgolette rilassata, si arrivava a posti industrializzati, in cui, per cui già frenetici. Oddio, non voglio dire, cioè, comunque c'erano i treni, non c'erano le macchine probabilmente. I treni, le fabbriche, le cravatte, le giacche, i cappelli eleganti. Ma la eleganti. Gente iniziava a spostarsi, a fare a quello che, cioè, purtroppo a noi oggi magari sembra etereo e che il tempo sia così, ma non è così. C'è stato proprio un modo, uno scalino tremendo. Uno scalino tremendo, esatto. E la gente ha iniziato anche a fare musica in base a quello. Sì, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando proprio del Chicago Blues, che è uno dei... non possiamo neanche chiamarlo sottogeneri, perché poi leggendo un po' ti rendi conto ci sono molti esperti che non sono sicuri che ci sia davvero una grande differenza tra il Delta Blues e il Chicago Blues o il Dallas Blues, ho letto anche. Diciamo che se c'è una differenza, noi ve la vogliamo far sentire questa sera, perché noi un po', in realtà, almeno nei pochi pezzi che ci siamo ascoltati, per prepararci, un certo tipo di differenza l'abbiamo trovata, ed è in un ritmo, ad esempio, tra il pezzo scorso e quello che andiamo a sentire, non raddoppiato ma quadruplicato, perché invece di tenere uno si tiene quattro. Bravissimo, Pietro. E quindi, però poi, ad esempio, ci sono due strumenti che sono gli stessi, perché si parla comunque di armonica e chitarra e voce, e da lì non ci scappi, certo, mai. Questi sono le fondamentali, quasi, cioè per quegli anni, per quello che era produrre un pezzo blues. Però le cose cambiano, e ovviamente ciò che circondava questi artisti era quello che esprimeva il loro blues, quindi non... Che il loro blues, noi non stiamo intendendo la propria musica, ma il proprio sentimento. Bravissimo. Perché allora è questo il momento, e poi andiamo a sentire questo pezzo. Nel documentario che poi andiamo a vedere, troviamo un uomo che ci dice: se tu, ad esempio, dice ti piace una donna e non ti piace come ti sta trattando, non andare a dirglielo, prendi in mano una chitarra e canta. E che io questa cosa l'ho percepita un po'. Io ciò che non riesco a dire lo canto, e questo è esattamente il blues, secondo me. Per cui a Chicago, Coli, veniamo al succo, perché poi a noi piace tanto parlare. A Chicago il proprio blues lo esprimevano in questo modo qui. I roll and tumble, baby, cry the whole night long. I roll and tumble, baby, cry the whole night long. When I woke up this morning, baby, all I had gone. Yes, I know my baby, she gonna jump and shout. I know my baby, she gonna jump and shout. Abbiamo ascoltato e stiamo continuando ad ascoltare Rolling and Tumbling Parts 1 and 2 di questo gruppo che si chiama Babyface Leroy Trio, che insomma mi diverte molto. Tra l'altro Babyface, ah, sono d'accordo. A parte Carlo Pastore, che se per caso state ascoltando salutiamo, Carlo Babyface Pastore grande. E Babyface era anche un criminale, uno che rubava, derubava le banche, ed è citato, sì, proprio in questo film di cui andiamo. Oddio, non so a se parlare, non dopo. So se no, non credo, di, non credo questo, credo. Babyface, però no, mi fa sorridere per questo comune. Comunque di siamo comunque, esatto, ricordiamo che siamo a Chicago, siamo negli anni 30, 40. Negli anni, sì, adesso guardando l'età di Babyface, 23-58, quindi sì, direi assolutamente. E niente, questo era quello che era il blues di Chicago, forte, no? Più ritmato, come sì, si fa. Sì, e soprattutto anche questa cosa parte 2, che non devo dire la verità, non avevo ancora sentito. Mi è piaciuta molto perché c'è la vocalizzazione, proprio come, cioè l'uso della voce come strumento, quindi un'altra appropriazione di quello che magari non cioè di quello che hai e che usi per fare musica, e lo usi ritmicamente, perché è quello che sta facendo qua. Sì, un'altra volta lo ripetiamo, è l'assenza completa di distanza tra l'essere e l'esprimersi. Bello, mi piace molto. espressione pura. Cioè non c'è troppo altro da dire. Ora, visto che in realtà ce ne sarebbe tanto altro da dire, ma abbiamo anche poco tempo perché stiamo cercando di fare, ed è un colmo, una versione espressa un po' di questa puntata, perché poi abbiamo un documentario da guardare. Veniamo a un momento in cui cerchiamo di prendere dei concetti di cui abbiamo parlato e portarli un po' fuori da quello che è il blues come genere musicale. E questo si fa semplicemente, lo si fa per suggestioni, per connessioni mentali che poi sono anche casuali, semplicemente perché mi è capitato di rivedere un film e ho detto: ma guardi, io sto preparando una puntata su questa cosa, io devo parlarne. E questo film di cui sto parlando è Rockers del 1978, che è un film cult in tutta la cultura, nell'ambiente reggae, il cui protagonista è Leroy Horsemouth Wallace, che è uno dei più grandi batteristi reggae giamaicani. In quel tempo suonava con Gregory Isaac, suonava con Jacob Miller, ha suonato per tantissimi cantanti e produttori, e insomma è il protagonista di questo film che si chiama Rockers, in cui ci sono tanti artisti della scena giamaicana dell'epoca che fanno gli attori, però interpretando un ruolo che è quello di se stessi. E insomma, succede una cosa per cui Horsemouth è molto giù, è molto molto giù, e va a casa del suo amico che si chiama Winston Rodney, cioè Burning Spear, e gli dice: Spear, mi è successo questo, I'm feeling it, della serie sto male, mi sta colpendo molto forte. E Burning Spear dice: ok, aspetta un attimo. Entra dentro casa, riesce, e scalzo lo accompagna sul molo, su dove c'è, insomma, sull'oceano. Dal risvolto nei jeans, Burning Spear, Winston, perché non è Burning Spear, non è l'artista Burning Spear, è Winston in quel momento lì, tira fuori due spliff, ne dà uno a Leroy e uno se lo tiene per se stesso, e li accendono, e la prima cosa che fa è cantare una cappella di un suo pezzo, insomma, storico, che è Jano Dead, ma canta lui da solo. Cioè, in sottofondo c'è il rumore dell'oceano sulla spiaggia, ci sono dei gabbiani, ci sono dei pezzi di ferraglia che sono mossi dal vento, ed è lui con la sua voce che canta questa canzone che forse non è blues, perché in realtà è di speranza, però è è blues nel senso che è di consolazione. Bravissimo. Che è Jano Dead. E la cosa che mi ha colpito è: io, non uomo, e non sono io, ma sto parlando di Winston Rodney, che viene, Horsemouth viene da me ed è un mio carissimo amico e mi dice: sto male, sono triste, I got the blues. Io, uomo, voglio consolarlo, e qual è la prima cosa che mi viene in mente per dargli una mano? Cantargli una canzone, portarlo sull'oceano e cantargli una canzone. Io, mentre lo sto dicendo, ho i brividi. E infatti adesso andiamo ad ascoltare. Fortunatamente ho trovato su Spotify questa versione a cappella, proprio che è la registrazione del film, per cui è esattamente l'esperienza originale, senza video, ma forse ancora più immersiva. E poi ci ascoltiamo anche la versione in studio, perché comunque è una hit. Ma intanto sentiamo Jano Dead, un pezzo di speranza. Smetto di parlarlo, bellissimo. And he tried to fool the black population by telling them that Jah Jah did. I and I knows God, Jah no did, Jah no did, Jah no did, Jah no did, Jah no did, Jah no did, Jah no did, no woe, Jah no did. My knowledge increase, my memory reflect, Marcus Garvey did say, a rumor, rumor, rumor, rumor, rumor, a mahacracy. A rumor, rumor, rumor, rumor, rumor, a mahacracy. Jano de, Jano de. It was Hyman who said, it's green and gold, it's the rainbow. The lion did crown the king. The lion did crown the king. In Addis Ababa, ha ha ha ha, Africa. Johnny D. Johnny D. Johnny D. Johnny D. Meet me at the bank of the beautiful river. When your journey has ended, I and I will discuss about this matter. Johnny D. Johnny D. Sì, abbiamo sentito anche la versione, ma a parte l'avevo detto, la versione in studio dopo, per, ufficialmente, perché non posso non mettere un pezzo che sia direttamente reggae nel momento in cui mi viene in mente, ma la verità è che dopo quella versione a cappella io ho bisogno di 2 minuti per asciugarmi le lacrime. Ma è, no, ma al di là dell'asciugarsi le lacrime, cioè, oddio, stiamo parlando di cose che... sono passati 100 anni, fratello. Cioè, dobbiamo sentire anche un po' di musica fatta e prodotta ormai. Cioè, a me quel pezzo lì del film, e mi fa piacere che Nanni in regia mi abbia detto che ne sono venuti i brividi, perché vuol dire che è una cosa che esiste davvero. Mi fa venire, insomma, la pelle d'oca, ecco. E perché? E cerco di dirlo rapidamente. Dice Jano Dead, questa è la speranza per loro che sono religiosi in quel senso lì. Dice cercano di ingannare i neri, la popolazione nera, dicendo loro che già è morto. E se uno volesse interpretarlo in un altro modo che non è religioso, che è un po' facendo una parafrasi, no? Non è assolutamente blues questa cosa. Cercano di ingannare il popolo nero dicendogli che in questo caso magari il Dio non lo si può prendere come un riferimento dell'origine culturale. Vi ingannano dicendovi che la vostra origine è stata cancellata, che la vostra cultura è stata cancellata. Poi, questa è semplicemente una cosa che mi è venuta in mente pensando a inserire questo pezzo nella puntata di questa sera. Però credo che non sia davvero così diverso. Poi bisognerebbe fare della teologia, bisognerebbe fare delle ricerche molto molto molto più pesanti. Però mi è venuta in mente questa cosa. E insomma, e diciamo, esatto, che siamo arrivati ad arrivare a costruire la puntata anche un po' in base alle cose che ci sentivamo noi, no? Sì, cazzo, perché ci abbiamo il blues addosso, Coli. Non vedeva l'ora di dirlo, Pierino. E quindi, no, dicendo adesso, senza perdere altro tempo, avendo il blues addosso, quella che porto io, quella di prima ovviamente era una traccia che apparteneva a Pietro, ma quella che porto io invece adesso stasera, proprio come i diritti, ce l'ho io i diritti. Come i diritti, esatto, esatto. Portiamo i Soggy Bottom Boys. Giusto, sì, l'ho detto bene? Perfettamente. Che okay, traduciamo anche questo, vuol dire ragazzi col culo umido, moscio, com'è? Oh, sì, rotto. Soggy. No, soggy è umido, secondo me. Ok. Che no, vengono, stanno nella palude, vengono dalla palude. Esatto, però esatto, si parla di persone veramente umili e terrene. che arrivano da un film. Adesso delle date, dimmele tu. Film. Era il 99. Fratello, dove sei? Tra l'altro, che è 99? Evidentemente ma è il nostro film preferito. Sembra vecchissimo. È del 99. 99. Bro. Allora, non è il mio film preferito. Penso che sia uno dei film preferiti di Pietro. Assolutamente sì. Ok. Però quello che mi ha portato a me a scegliere questa traccia e questo film, tra virgolette, anche lui ha scelto un film, quindi ha detto anch'io scelgo un film. Ma quanto siamo forti, Goli, siamo anime gemelle. E è stato che il primo cortometraggio, tra virgolette, che ho girato con i miei amici, e quindi le prime esperienze di cose, musica, io mi occupavo di audio, cose, musica, eccetera, tutto quanto, arrivano anche per me da questo film, in cui c'è questa traccia che si chiama Man of Constant Sorrow. E più blues di così. Una pena costante. Ma io non sapevo neanche, probabilmente ormai si parla di 5-6 anni fa, che cosa era effettivamente il blues. Lo porto oggi con questa traccia qua. Non devo aggiungere altro. Constant Sorrow, l'uomo con una pena costante. In constant sorrow all through his days, I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble. No pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends. No friends to help him now. It's fair thee well, my old lover. I never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad. Perhaps I'll die on this train. Perhaps he'll die upon this train. You can bury me in some deep valley for many years where I may lay. And you may learn to love another while I am sleeping in my grave. While he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you never will see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. I am a man of constant sorrow, dicono i Soggy Bottom Boys. Nel film quello che cantava era George Clooney, ovviamente. Non è vero, una cosa, ci ho appena aperto una. No, nel senso che faceva finta di cantare, cantare. Stavo dicendo anche la stessa cosa. Però oggi in modo molto divertente ho scoperto che in realtà i Soggy Bottom Boys, cioè i musicisti che hanno fatto le parti musicali su cui gli attori poi hanno fatto playback e quant'altro, nel 2014 hanno davvero fatto un tour negli Stati Uniti come Soggy Bottom Boys e mi sono divertito tantissimo scoprendo questa cosa. Però sì, no, certamente non cantava George Clooney. Mentre io voglio salutare mio fratello Compa che sta all'ascolto. Siamo arrivati ai saluti. Sì, perché mi ha scritto, ci ha scritto, va salutato Compa, che è un altro speaker di A Star Bene. Fa un programma che si chiama The Compa Man Show e va in onda domani. Vado in onda, lui fa un settimanale tutti giovedì alle 9 di sera. Ci sta il Compa Man Show su astarbene.com. Segnatelo, Drago. Però qui stiamo parlando di blues, non di dub, di reggae, per quanto poi. Quindi andiamo un po' forse ad introdurre quello che sarà il documentario, anche se ne abbiamo già parlato. Alan Lomax, abbiamo qua, nato nel 15, morto nel 2002. Sì, figlio di un musicologo e quindi comunque c'è un po' nel sangue questa cosa della ricerca musicale, evidentemente ce l'aveva già, no? Sì, qua dice produttore discografico statunitense. Ora si apre un po' quello che è un tema, ne stavamo parlando prima, nel senso che ad esempio della registrazione che abbiamo sentito del detenuto su Spotify, là sotto il nome, sotto artista c'è Alan Lomax, il che vuol dire che lui detiene i diritti di questo, che certo. È legittimo. Nel senso comunque aveva un mandato della biblioteca del Congresso americano, stava facendo una cosa molto istituzionale, sì. Infatti poi Columbia, insomma, tutte cose molto molto istituzionali. Allo stesso tempo i nipoti e i pronipoti di Alan Lomax stanno vivendo e prosperando probabilmente grazie a quello. Certo, ma come di quel detenuto lì noi non sappiamo neanche. Ma da un lato come prosperiamo noi in quanto civili e comuni mortali nel sapere che cosa effettivamente veniva cantato a quell'epoca in quei posti lì. Ma infatti io non dico che dovrebbe sparire Alan Lomax dalla fronte, diciamo, di questa cosa. Dico che sapere il nome di chi ha fatto la registrazione e non di chi ha eseguito, tra virgolette, nel momento in cui stiamo parlando adesso di musica è assurdo. Certo. E soprattutto forse è, o meglio, sarebbe stato meglio se pure i discendenti di quel povero detenuto che stava lì a spaccare la pietra e stava cantando, in uno abbiano il riconoscimento, certo, almeno di lui era mio parente, che ne so, che insomma è sempre una cosa almeno di orgoglio e anche lì, però in realtà di cultura. E poi, visto che sappiamo che insomma la famiglia Lomax prende i diritti dalle riproduzioni di questa cosa, diciamo che non sarebbe stato male che riprendesse anche qualche discendente di questo. Assolutamente. Ma da qualche parte, interprete, perché poi certo, interprete. Ma da qualche parte, secondo me, visto che conosciamo entrambi il personaggio, sicuramente, sì, è vero. Sicuramente lui da qualche parte ha scritto il nome di questo e di ha questo trovato cantante. Magari il modo anche di compensarlo, perché era una persona, insomma, nel documentario che abbiamo visto poi su di lui si capisce come sia fosse certo, molto molto entusiasta. Cioè ormai che sono passati 100 e passa anni non ci rendiamo conto, però lui effettivamente ha fatto una cosa che ad oggi sembra è un'impresa mastodonte, cioè proprio è una cosa che dici, non è che dici ok domani mi sveglio e vado a farlo, è una cosa che, come lui diceva di se stesso, era una cosa, era una missione, bravissimo, cioè era una cosa che gli era capitata addosso e lui doveva portarla a termine, ovvero raccogliere quanto più materiale possibile di quella che era la folk music nella terra in cui era nato. Cioè sostanzialmente la musica popolare. Che stavo dicendo, che l'ha fatto in un momento urgente. E la cosa eccezionale è che lui sapeva di questa urgenza. Lui stesso diceva: io devo farlo prima che queste cose muoiano. Certo, io perché prima se io faccio questo adesso, allora riuscirò a dargli una sopravvivenza, a consegnarle un po' all'eternità, alla memoria. Se ci penso tra 5 anni, forse qualcuna di queste cose qua io già me ne sono perse, perché vedeva il cambiamento nel mondo e anzi, insomma, evidentemente lo preoccupava anche molto. E poi si può parlarne anche, sì. Ovviamente era un uomo di un altro tempo, di un altro mondo, però avvertiva proprio questo cambiamento e questa urgenza del suo lavoro. Certo, e da considerare anche effettivamente, perché abbiamo visto che è nato nel 1915, sì. Quindi vuol dire che quando aveva 20 anni effettivamente si è ritrovato in mano quelli che erano i primi, non i primi che funziona, i primi registratori portatili. Sì, sì, quindi quel, delle, cioè, macchine enormi, tra l'altro. È vero che lui ha sentito la vocazione, ma la vocazione forse gli era anche arrivata da una serie di coincidenze che l'hanno portato ad essere lui, perché obiettivamente è lui il detentore di quello che è la trasmissione della folk music di quegli anni. Sì, sì, sì. E forse ci renderemo conto vedendo questo breve documentario. Dopo, detto questo, noi non possiamo concludere questo talk show senza dire, se non è emerso nell'arco di quest'ultima ora abbondante, forse abbiamo sbagliato qualcosa, ma è bene esplicitarlo. Perché parlare di blues oggi, quando alla fine il blues puro, crudo, non viene più ascoltato, o poco ascoltato, prodotto forse ancora meno? Beh, ma cioè, nel senso, si può dire ormai nel 2022 che il blues non è più una musica, cioè il blues, quello originario, non si può dire che sia una musica ascoltabile e fruibile normalmente. Certo, ci sono certe cose che è bello portarsi dietro. Ricordano. Perché prima i brividi entrambi, cioè voi due qua in regia, i brividi entrambi a sentire un pezzo blues. Quindi non è una musica morta, però è una musica che purtroppo... E allora, se noi vogliamo dire una cosa che sappiamo, che abbiamo la certezza di non essere falsa, è che un modo per non fare blues, ma per comportarsi in modo blues, ma in realtà sì, per fare blues oggi, è quello, è eliminare quello che ho detto prima, è eliminare la distanza tra chi sono e come mi esprimo. Se tu, facendo musica, facendo la tua arte, peschi direttamente dal tuo cuore, dalla tua anima, da quello che senti profondamente, allora stai facendo blues, allora sei un bluesman, sei una blueswoman. E possiamo anche finirla qui. E ti vogliamo bene, ecco, aggiungiamo questo: sei un bluesman, sei un blueswoman, e noi qui a Battito Male da Star Bene ti vogliamo bene. Dunque, noi, come siamo abituati, che in realtà si forma adesso l'abitudine, perché è semplicemente la seconda volta che lo facciamo, ci sentiamo una cosa che va molto oltre il genere di cui abbiamo appena finito di parlare. E direi che i saluti li facciamo anche adesso. Grazie a tutti e a tutte quelli e quelle che ci hanno ascoltato, che sono venuti e venute qui a trovarci con noi a Exalge. Restate qui perché adesso guardiamo un documentario che è bellissimo e fondamentale. Ciao di nuovo con Paman, noi vi ricordiamo a Star Bene, seguiteci ovunque, ci siamo, seguite Exalge perché fanno un sacco di cose fighissime. Non ci siamo mai spinti il canale Telegram, ma anche quella è una cosa che invece sarebbe da spingere, e questo l'abbiamo fatto. E adesso ci sentiamo questo pezzo e poi andremo direttamente in Siria e cominciamo a montare il documentario. Sì, sì, sì, belli cillati qua a vedere i bluesmen, quelli veri senza denti, le blueswoman senza denti, con gli brutti, senza occhi, c'è uno che gli manca un occhio, sono delle cose bellissime. Vabbè, chiudiamo invece con un pezzo di Al Dobson Jr. Si chiama Who You Think You Are. E via. Grazie, ciao, questo è stato Battito Madre, noi torniamo l'ultimo mercoledì di marzo, di febbraio. Ciao.